incorporate in due già. Scusa, ciao a tutte e due. Ciao carissimo, ciao. Eia. Ciao Marco, buonasera. È bello profè, mamma mia. Guarda, l'unica distrazione è andare in farmacia o fare la spesa, anche a comprare, cosa ne so, un po' di formaggio grattugiato, un po' di uscire. Eia, guarda, io mi sono fatto, avrò fatto da qui al tabacchino, saranno 100 metri, 150 forse, dai. Ho buttato la moneta e mi sono comprato il tabacco e niente, dai, senza mascherina chiaramente e niente, sono andato, sono tornato e ciccia. Via. Guarda, a leggere, a sentire internet i pareri dell'uno dell'altro su YouTube, poi non si sa chi dare più ragione. Ma poi questa coincidenza con questa mega, come si dice, esercitazione NATO, 20.000 soldati in tutta Europa, ma chi lo sa, coincidenze, non... cosa temono, che ne approfitti la Russia vedendo l'Europa indebolita, boh, tutto possibile. Marco, guarda, io... io come tanti altri insomma sto cercando di farmi un'idea, sto cercando di ragionare più con il cuore, con la testa piuttosto che con la pancia, quindi insomma poi chiaramente se ragioni di pancia hai un effetto, se ragioni di cuore e di testa ne hai un altro. Io sto leggendo un sacco di cose, sto vedendo anche filmati, video, altre cose su internet e veramente mi stanno venendo i brividi, cioè delirio totale, veramente, proprio delirio totale, cioè poi questa cosa di fare le classifiche, cazzo, non lo so, ognuno di noi poi giustamente se la vive in maniera molto personale. Quindi insomma, che certo non siamo in una situazione, non siamo a nostro agio in questo momento, secondo me bisogna cercare di stare calmi, insomma, e non è che il primo che passa lo puoi azzannare al collo, cioè voglio dire, è un momento difficile, bisogna riuscire a stare un attimino calmi, ragionare, cercare di, per quanto lo so che possa essere difficile, però bisogna un attimino restare più tranquilli, dai, perché per sclerare ci si mette un attimo, con il rischio che ci passi gente assolutamente incolpevole, insomma, non lo so, traspare un sacco di astio, vedo un sacco di malumore che si sta trasformando in qualcos'altro, capito? Non lo so, questo è l'augurio che mi faccio in cuor mio, insomma. Spero che ci sia un po', che emerga un po' di buon senso da parte delle persone, perché veramente, insomma, quelli secondo me sono i veri virus. La paura è il virus peggiore, come hanno detto molti. Certi sono, nel modo di dirlo, estremisti, anche del tipo non vaccinatevi, fate una vita all'aria aperta. È inutile mettere mascherine, è inutile tutto, però questo vivo è bello isolato, non so dove, adesso sia in alta montagna, io lo grido, anch'io se fossi stato su un'isola deserta, mi sarei messo anche a culo nudo, mi sarei messo. Vai Eugenio, Eugenio, ma si è già rotto dei discorsi. No, magari si è spostato, vedete, doveva fare altro, insomma, aspetta, mi sposto un attimo. Ah no, non l'ho sentito, no, non ci ho fatto caso, non ci ho proprio fatto caso. E va bene, ancora non è entrato nessuno, no, tanto mia, adesso io comincerò. Oggi voglio pasta, voglio, perché mamma la sto incornando la pasta e mi devo servire le cose che piacciono solo a lei, no, non esiste, oggi pasta, di prepotenza pure. E quindi sì, tra riscaldare l'acqua, cucinare, mangiare, eccetera, poi si faranno le scelte pure. Molto bene, relativamente bene, dai. Eia. Ascolta, hai letto la Gazzetta Ufficiale? Perché secondo me è molto importante leggerla. Se vuoi te la mando via Telegram. Non posso stare qua a dirvelo. Leggetela, se vuoi ti mando il PDF o il file immagine. È da leggere, è molto importante. Manda, PDF. Te la mando via WhatsApp o Telegram, boh, non so se c'è anche Telegram. Poi te la leggi, dai. È così, non mi costringere a fare una cosa che non voglio fare. Dai, te la mando, magari te la mando su WhatsApp, ok? Andave. Stavo leggendo qua un paio di news che anche Lady Gaga è mezzo bizzicata, quindi. Grazie alla regina d'Inghilterra, mi pare pizzicata o sbaglio? Affermativo. C'è Tom Hanks pizzicato, poi c'è Celine Dion, a quanto pare anche Madonna, poi c'è il primo ministro canadese, la moglie del premier spagnolo, insomma. Poi ho visto una lista di adesso devo riuscire a beccare il link, ho visto una lista di gente pizzicata. Aspetta che nel frattempo cerco di aprire Telegram e mandare la cosa a Marco. Dai, avanti Marco. Eia. Manda, perché vabbè, oggi ancora non ho guardato nulla di quella roba lì. I telegiornali poi sono a senso unico, mai una voce altisonante, nulla, o comunque già capito, no? Però come mai, cioè, vedo i programmi della D'Urso, decine di persone in studio, questi non hanno paura di, basta uno che sia portatore sano o che ancora non abbia sviluppato questo fantomatico virus e può contagiare altri. Vabbè che lì dice, ma quello è un luogo privato, vabbè, però siamo a stretto contatto, vabbè, non ci staranno a via per culo a noi. A Genova? Ci manca solo quello, io sono attrezzato per il lato sicurezza, ma il lato alimentare non sono per niente attrezzato. E già, se sono messo male già mi cucino i gatti al forno o con le olive, tipo agnello. Non lo dire neanche scherzando. I gatti di casa, certo che scherzo, piuttosto muoio di fame io, ma... Allora, aspetta che apro, ecco l'icona dell'applicazione, non la stavo riconoscendo, è l'aeroplanino. Eia, quindi Jay, cosa stavi dicendo? Scusami, mi è sfuggito un pezzo. No, riguardo alla storia di Genova. Crocro, come si dice, crocro. Uia. Vabbè, dai, vediamo se Marco ha ricevuto il file. Marco. Domanda è uguale sia quella la foto che il PDF, perché il PDF sicuramente lo leggo meglio, ma lo leggo anche con calma. Allora sono due file immagine, c'è un file direttamente immagine e poi l'altro come file, prova a vedere se riesci a aprirli tutti e due, vediamo un po', nel caso te li rimando. Ci dici molto meglio l'altro, il PDF credo, o quello che è. Stavo già leggendo, ho visto l'articolo, visto questo, realizzare una computazione di previsione e prevenzione impone l'assunzione immediata di iniziative a carattere straordinario e urgente, dopo anche l'esercito ci troviamo in strada, e per controllare gli scontrini a vedere se eri davvero in giro per fare la spesa. Andiamo un po', considerata la necessità, bla bla bla, dai, continuate che leggo. Oh yeah. sì, ti ho mandato qualcosa su WhatsApp, dimmi se riesci ad aprirlo. Prego. Avanti, avanti, avanti. Buonasera, buonasera, buonasera. Sto finendo di cantare dal balcone. Ah, mamma mia, sì. Ehi, guarda. Cioè, bla bla bla, vediamo. Ehi, buonasera. Ma la cantata l'ho fatto io, mi ha sentito tutto il quartiere. Gianni, stavo leggendo in un sito di un giornale della Calabria che c'è un tipo che si è messo a cantare l'inno nazionale e uno dei vicini ha praticamente levato il fucile e ha sparato in aria. Avete parlato in due, vai il profeta. Ho detto che su un giornale online della Calabrese, della Calabria, praticamente un tizio è uscito a cantare l'inno nazionale e un suo vicino praticamente ha preso il fucile da caccia e ha sparato in aria. No, no, così no. Se invece è una cosa di pace, là. Cappa che ha fruia. Vabbè, del culo, lo so, è un bravo tenore, non c'è problema. Ma sa che dietro di sé quando c'era il come del culo, ma no come del culo superiore. Sarei di fatto di Italia. Vabbè Claudio, come vanno i domiciliari? Sì, no, abbiamo sentito anche le cose, cantè. Sì. Lo volevo dire, abbiamo anche il CB tenore. Se senti a Matto Giovanni Napioli cantando, allora. Attento mi. Che siete, visto che siete molto avanti oggi, stai attento, che ci vai molto avanti, se cadi a moglie mi. Cadi al porto, capito? E la tua compagnia la Marinella che quando va di bella cura se vai a moglie. Forgiato. Vai, è l'età del mucco, vai. Ma me state giocando in via Libia, ho messo un fuggito a Bolto d'Orra. Vai, c'è di morti, cazzo. Mi fa parlare se era vero d'estate, adesso l'ultimo. Ma prima c'era un po' di festa, karaoke, c'era un po' di spettacolo. Con la fretta ci scendevo d'estate. Gianni, il portatore già conosciamo quando sono nato io, hai capito? Quando hai iniziato a lavorare tu, allora era Porto Torres, cosa che Eugenio non era ancora nato, quindi allora si poteva chiamare Porto Torres, che tutte le domeniche c'era festa in piazza, due corse con i sacchi e gare di garruzzo di Vasiame e partite di pallone all'Occone. Adesso è un paese dei Calabri, hai capito? Un paese dei Calabri. Se tu immagini che io potrei andarmene domani a abitare a Porto Torres e non ci vado, perché c'è il piano di mia madre che è toccato a me, quindi non manco ci mi bari, infatti quando ci metteremo d'accordo lo vendo subito questo appartamento. A me mi ha forgiato Matto Giovanni Ascione, conosci tu lei tu Matto Giovanni Ascione? Eh? L'unico fabbro che c'era a Polottosi, lì si è forgiato a me. Lui non l'ha conosciuto Gianni, lì dov'è Matto Giovanni Ascione? Dov'è Branca? Quello che vende la roba elettrica, che via è quella? Via Ponte Romano, che via è? Via Ponte Romano. Sì. E si gioca a Ponte Romano, sì. E dietro, dove c'è anche il circo con l'amico nostro? Lì c'è Nicola che fa break disperatamente. Gavriele, aspetta Nicola, dimmi Gavriele chi c'è in Neve Branca, Gavriele, dove c'è la zia Giovanni Ascione, che via è quella? Ma tu lo sai chi sono gli Ascione di Porto Torres? Sono tutti i miei cugini di primo grado, compresi anche Belmonte, il cugino ti sa Saina, capito? Perché non Ascione era la mamma della, di zia Maria, quella che ha sposato praticamente un Belmonte, capito? Quindi Tore Ascione, l'orologiaio. Non peraltro io faccio Marti di cognome, non ti dimenticare mai, tutti i fatti di babbo sono tutti orologiai ad Alghero, quindi dove Andolfi lavorava con mio zio e Ascione, Tore Ascione lavorava con mio zio, col fratello di babbo che è morto, quindi noi vi abbiamo forgiato a voi, capito? Beh, non lo so questi ne butto, boh, quanti ne hai, 40, non lo so, io ne ho 60 fatti, quindi, ma tu scusa, cioè, ma tu vuoi dire a me la famiglia Cialento, è toccatore, è mio cugino di primo grado, hai capito? Pina, la moglie di Tore, Lucio e Tiziana, la giubilata in braccio, hai capito? Io abitavo in via Cavour, e abitavo lì, dove c'era il dottor Pani, dove adesso c'è la farmacia. Quindi tutto quel caseggiato, dove c'era l'orologeria Scione, quello era tutto di famiglia. Mio padre aveva dalla punta del via Cavour fino all'angolo dove c'è 5 Ruio, quello era tutto di mio padre, perché c'era l'officina, il negoziato di cambi e la casa, che c'è ancora la casa, dove abita mia madre. Poi abitavi a fianco, abitavi sopra a Vera Colombino, non usa bene, sì, non uso. Poi abitavi sopra a Vera Colombino, a fianco abitavi, non di fronte, a fianco. Io ti sto parlando sino all'angolo dove c'era il dottor Pani e all'angolo dove c'era l'orologeria, dove è nata adesso la farmacia, quello lì era tutto, Marti Ascione, dall'angolo di sopra sino a giù, dove c'è 5 Rui. Ti puoi dire rispondi pure Gianni perché è più portato al rese di te, Gianni. Dico che è 40 anni a Polottorese, ha lavorato per 40 anni a Polottorese, quindi. Rispondi tu Gianni, fai entrare il break, vai. Una giornata c'è in terra, righi te Eugenio. Del bombolaio, capito? Mentre io ero più, loro sono entrati come cugini acquisiti, capito? Antonio, Duilio, tutti Belmonte, perché via Virginia Scioma, che tu hai conosciuto sicuramente, che abitava alla fine del campo sportivo, dove Duilio ha fatto mi pare 2 o 3 appartamenti di questo impresario. Nonna Scione era praticamente la sorella di mia nonna, capito? Della madre di mamma. Abbiamo anche quelli della Feni, sono quelli più popolari, sono anche quelli della Feni. La licenza delle bombole gliela ha dato a Babbo, perché Babbo era direttore della Liquipibigas, capito? Era direttore della Liquipibigas, in più ci aveva l'officina e il negozio di autoricambi, dove lavorava sia Pasqualino Mameli che Salvatore Bugia, lavorava assieme a mio padre, erano dipendenti di mio padre in quegli anni lì. Ah, quindi si sono formati da tuo padre e poi si erano messi i negozi a conto loro. Ma Bugia non c'è più a Sassi? Sì, che c'è, a Zeta Ricambi si chiama adesso. Ero un paio di settimane fa io con il signor Torre. Io quando andavo da autoricambi Torre non ho mai pagato una lira, mai. Qualsiasi cosa potevo prendere, tutto quello che mi piaceva, non ho mai pagato niente. Adesso a poco sono andato a comprare l'olio alle spalle del tennis di fallo della 147 e non ho pagato lo stesso. A Zeta Ricambi si chiama adesso. Ma il posto è sempre lo stesso, è sempre lì a 30 lire. Sì, è praticamente, hai visto dove c'è la Citroën? Giri per andare lì dietro, c'è il Banco di Sardegna, lì dove c'era prima Portobello una volta, si gira lì, capito? Si gira lì, dove c'è la Citroën, lì, dove c'era prima un tempo la Mercedes, lì, si gira lì e lei dietro per andare proprio dove c'era l'autoricambi Torres, bravo, sì, lì, però è un pochino più avanti adesso. Ah, ho capito, non è lo stesso stato, perché sono andato a comprare un pezzo ed era chiuso. Siamo andati con Natalina a comprare l'altro pezzo della macchina sua che c'era rotto ed era chiuso. No, non è lo stesso stabile, Gianni. Però si vede perché c'è il cartello a Zeta Ricambi, anziché andare dritto nello stabile di prima, devi girare nella prima discesina che c'è, è lì, e c'è anche un vetraio, non so se si chiama, cos'è quello, Pilo forse, non lo so. Lì comunque un bel capannone, è tutto intestato naturalmente ai figli, a Giuseppe e alla figlia, lui è in pensione signor Torre, però c'è sempre lì. Ho capito, ci stava anche la moglie, la casa. È morta. Sì, è morta 5-6 anni fa, sì. Avanti, un pomeriggio. Io non lo sento. Sì, avanti. Ma sta parlando già? Sì, cavolo. avvicinando. In Corex rimango, dai. No, pasta, roba così normale. Appagata. Io faccio tutti i giudici. Andare. Claudio, non so chi ci sia, dai, c'è Marco, c'è Eugenio, poi c'è tu. E poi. Non so, già io ho cercato a fare una battuta, non so, c'è una radio accesa. Vi ho sentito. E oggi è lì, lì praticamente. Però sto dicendo dove c'è la via Giovannascione, quindi dovevi attraversare, andare lì dove c'è la Pintavera, no? In quell'angolo lì, lì dietro, dietro proprio di fronte a dove abitavi tu, però dietro, dove c'era, per farti capire dove aveva o dove ha, non lo so, se c'è ancora lo studio Enrico Pira, se lì, no? Dove c'è la pizzeria La Tana lì, quella via, lì abitavano tutti i Pintado, te li ricordi tu? Ma adesso va Torre Pintado, guarda, Torre Ascione, allora quando è morto Torre Ascione io avevo esattamente 16 anni, fatto il conto, ne ho 60, ok, Torre è morto che non aveva neanche 40 anni, ne aveva 38, e Pina ne aveva 35, perché avevano 3 anni di differenza, ok, ed era già nato Lucio, era già nato Lucio, quindi figurati tu, una vita, e immaginati che Tore e Pina abitavano in via Libio nel palazzo di zio Pietro Mangatia, perché anche Mangatia sono miei zii, ok? Perché la moglie di Pietro Mangatia è Falchi, ok? Come mia madre. Cosa sto dicendo? Mamma abita 20 metri più avanti, all'angolo dove c'era quel circolo, la casa praticamente l'angolo che scende da via Cavour e fa l'angolo di via Libia dove c'è il circolo dei combattenti, per farci capire, da sopra da via, cos'è quella via Petronia, da sopra, dall'angolo di sopra sino all'angolo di giù di via Cavour, quello era tutto tranne Don Fenu, che abita ancora, tranne Don Fenu, quelle erano tutte case di mio padre, dove in mezzo c'era l'officina, non molto grande, e il negozio piccolo di autoricambi. Il negozio grande di autoricambi e l'officina grande ce l'aveva a Campanella. Bene. No, la mia generazione è tutta lì. Però in più sono tutti ad Alghero. Ui, ragazzi, mi sono già, mi viene. No, mi ho finito adesso, ho fatto le melanzane a funghette piccole, con aglio, prezzemolo, peperoncino e cipolla, fa tutto il soffritto, tutto già pronto, e stanotte facciamo due pennette con le melanzane. Perché il riso l'ho mangiato avanti ieri, quindi basta, se no mi si stringe la canna. Va bene. Comunque, a parte gli scherzi, Eugenio, io sono rimasto a Parottolo da quando sono nato sino a 22 anni. A 22 anni sono andato via e sono venuto a abitare a Sassene, via Montegrappa, a casa dei miei suoceri che abitavano lì, c'avevano due appartamenti in via Montegrappa. Io abitavo lì perché lavoravo a Sassene, capite? E quindi sono andato via e non mi è più piaciuto Porto Torres, è diventato un mortorio e via. Poi c'è il periodo che c'ero io, c'era anche molta delinquenza, parecchia. Adesso penso che sia calmato tutto, ma quando ho abitato io a Porto Torres c'era molta delinquenza, a Ferratori, alla Marlon Brando, tra Piazza Garibaldi e Piazza del Consolato e Piazza del Comune, lì si è tutto andato e via. Io una volta me l'ho vista brutta perché ero assieme a Garibaldi, non so se lo conosci, non so se c'era ancora il circolo Michele a Viale dei Vigni, non so, e a Atanasio, poi c'era Torre Pintado, mi sembra, io Torre, Atanasio, Michele, forse c'era anche Vittorio Pintado, il cugino Vittorio. E partì da chitarrista con la gente che veniva a rompere le palle da Sassari e a Michele l'hanno bucato e noi ci abbiamo scampata per miracolo, quindi da lì non mi gioco più, poi c'è mezzo, basta, finiti i giochi, è un anno dopo me ne sono andato a abitare a Sassi. Qui mangiavano i paesini e il portoghese che c'è anche qua. Ci mangiava più, sì già, ma noi non avevamo questi problemi con quelli di San Gavino, perché c'era una graffetta, sì, che la comandava la buon'anima di Costantino Goniglietto, Costantino Giugia, e poi mi pare che c'era Fernando Gagliadrucola in quella zona, che poi sono andati a abitare tutti al Radio Satellite. Però eravamo in buonissimi rapporti. La cosa che rompevano le palle erano quelli di Borgona, che scendevano a rompere le palle a quelli della Bassa Valle. Una volta siamo incazzati, ne bucca due volte, quindi si sono armati. E c'era passato Michele che si era vista molto, molto brutta. Gigi c'era anche, Gigi Vartice, Gigi c'era a mia età. Gigi Vartice, avevamo fatto una bella, ma un bel gruppo c'era, un bel gruppo. Però questi stronzi c'erano, iniziava già l'era dei coltellini, delle cose, quindi c'era passato Michele. Poi Gojo Fernando, ma so che cazzo è successo, insomma, vabbè, comunque. Erano bei tempi, ma comunque bisognava stare attenti. Io da lì poi sono un anno dopo sono andato via e due anni dopo mi sono sposato. Mi sono sposato a 25 anni, avevo già tutto pronto qui. E già tu già te li ricordi, cazzo, tutti i casini che succedevano. Infatti hai lavorato per 40 anni a Prodotto Ovest. 38 anni. Io e Gianni siamo della stessa età, lui li fa ottobre 61, io li faccio a novembre. Quindi stavo dicendo, però già se ben ti ricordi, noi abbiamo conosciuto Viale delle Vigne, il vero Viale delle Vigne, forse Eugenio non l'ha conosciuto, il vero Viale delle Vigne è proprio Viale delle Vigne, tutto praticamente strada bianca con case di campagna eccetera. E beh, certo che l'ho conosciuto sì, perché a Prodotto mi pare che c'era lui e il padre di Aldo Foisi, allora impresario. E beh, è nata tutta quella zona lì, via, tutte quelle vie che ci sono all'interno, dove c'è via Antonelli, la caserma l'hanno fatta nuova, non c'era la caserma dei carabinieri prima, tutte quelle vie, tutte quelle cose lì. E adesso è una bellissima zona, una bellissima zona, facciamo un sacco di soldi le case lì. Però se già ti ricordi che avevo vera la campagna di Bassetta, che andiamo fuori a Cazzoffa, Fava, Pigello, e poi c'erano altre campagne, però lì all'interno poi è venuto a abitare Giampaolo RC2 e Giampaolo Silvestro Buonanima, perché quel palazzo è nato prima di quello di Giampaolo RC2. Giampaolo stava esattamente al numero 15, primo piano, prima porta a sinistra. Noi Viaggio Sattile ti sto parlando quando abitavo in via delle Vigne con la mamma e il babbo, sono nati tutti lì, attenzione, Viaggio Sattile sono andati dopo, anche perché via Piemonte è nato dopo, però lì la prima officina che vedi era chi salì di nonne, Antonio Nonne. No, io sto parlando di via delle Vigne, abitavo in via delle Vigne numero 15. Prima porta come salivi sulla sinistra, me lo ricordo come se fossi utile, consegnavo la spesa. Gli Beatadeo Sant'Enna, lì in via delle Vigne, io Giampaolo RC2, Francesco Muregio, Francesco TM, e cose Carlo Tittà. Via di Mediata Bose, chi si della, ti ricordi che lì c'era Radio Vittanova, quella era già la radio, c'era lì che disturbava Giampaolo. Ah, io mi ricordo anche la madre di Giampaolo, il padre era tutto secondo come c'è possibile? Sambo. Sambo da Bortuale, è Fortaleza la Viciomo. Te lo ricordi oggi, eh? Sì, c'aveva la sirena, c'aveva l'ancora, ma aveva un poco di tatuaggi. Aveva un indiano, mi pare, burro, ma lo ricordo, Sambo. Ma stai scherzando? Conosco tutta la compagnia portuale, tutta. Ti ricordo che mio zio era anche sindaco di Polo Torrese, perché zia Natalina, la moglie di Annibale Francesconi, era sorella di mamma, quindi a Polo Torrese sono tutti i miei parenti quasi. Zambo era duro, già, duro era, io l'ho conosciuto, conosciuto bene, duro era, tosto. Mi ha raccontato un giorno, è andato in pensione, cosa, Beniamino, Bastianino, come si chiamava, dice, fazia un ragioniere vostro? No, il nome non me lo ricordo, io c'avevo gli occhiali e è entrato come a fare commissioni. Allora chi c'era presidente della... In Bariera, no, Genio Corso dopo è venuto. Chi c'era il primo presidente, chi è stato? Il console era Bulapicella, che anche quello è un parente di mamma. Vittorio, Bastianino, Nicolino, a me l'aveva detto Nicolino. Poi a fianco a mamma abitava Antonio Resete, lo ricordi già, il babbo di Gavino, anche quello era portuale. E a voi da che me li ricordo, mi ricordo la Gavina, la Santini, che mi ricordo di sì. E ce n'erano tanti, specialmente a Santini che era pieno. Certo, erano in palazzo della Roma 47. Dal campo, al campo sportivo. Guarda già, io ero in via Cavour, in mezzo, tra via Cavour e via Libio, proprio in mezzo. Sopra di me, all'inizio di via Cavour, c'era Torre Burroni, quindi Manola e GT2, che poi sono diventate tutte e due radioamatori. Quindi tu immaginati, io ero già CB, c'avevo la KB23, e avevo la Standaster, no, avevo la Super Range, Bucci, la Standaster ce l'aveva Carlo Tità. L'ho fatto entrare io a Carlo Polotose, il baracchino li ha volato io, e appena siamo andati da Pinto Sescarpa a comprarla via Cavour. Quindi io ero in mezzo a via Cavour, sopra nella punta c'era Torre Burroni, ok? Nell'angolo di via Petronia c'era R6, all'altro angolo di via Petronia c'era Gavino Carcioffo, avvisi? Gavino Carcioffo, poi, sì, c'era Masello, quindi Voltatorni, che era praticamente all'angolo dell'inizio di via Libio, non so che via è quella già, non lo so che via è quella lì, all'inizio di via Libio c'era Voltatorni che chiamava la barca, Masello, Vichingo chiama, cazzo mi splatterava a milli. Poi, quello che mi splatterava più di tutti col Pace 123A era la buona anima dei Baraghini. Baraghini quando giammava di macchine era una cosa allucinante. E io ero lì in mezzo. Poi, dalla parte di Alsace c'era Ernesto. All'angolo di via Messicora c'era Fulmine, Torre Secchi, il portiere, bravo portiere, non so dove sta giocando adesso, Torre Secchi e Virgilio Balzarelli, c'erano delle antenne piccole ma anche loro avevano il baracchino. Più giù all'angolo c'era lo zio il nonno di Gavino Joker Balzano, Gavino Balzano, capito? Quindi io ero in mezzo, immagina di due gente che vera porto d'oro, una cosa allucinante. E Balzarelli ci aveva una come si chiama, balucca di quelle usciva forte quando chiamava le macchine, allora era in voga me, Bagarini, cioè Baraghini era l'unico tassista a Polo, cioè la macchina detta Bugifi, capito? Ce ne aveva un bel di macchine, cioè tutti c'erano la baracchina, parlava nel canale 9, e noi eravamo sul 23, e io ero in mezzo, ma mi hanno messo attrezzato, giù, ho comprato un legnalino, uno Speedy, a due valvole, 900 watt, il microfono, il pannello più due da tavolo, ma radiaretto va via, una bomba, infatti ero sempre a digoglio con Gavino Micheli, ma è morto anche lui, Gavino Carcioffo, poi c'è con Antonio Ressi, andavo molto d'accordo, Ernesto, cosa di oggetto, ha preso la terreni, gli ha preso la terreni, hai cosa? E poi è nato sopra, a fianco a Torre Burroni, l'antenna gliel'ho piazzata io lo stesso, col signor Tore, a Domenico, a Gavina praticamente, l'ho piazzata io, che abitava nel palazzo di Congiatta, no? A 16 B sono stato il primo socio io, il primo socio, presidente era Vincenzo del Fino Bianco, alla Shell, e lì dentro io, alla Shell, vera Shell, che io ho conosciuto in attività, ci ho anche lavorato lì dentro io, capito? Ci ho anche lavorato, sono andato via quando hanno fatto l'appoggio della Polmar, della Polizia Marittima. Io li ho conosciuto la sede di CB. Sì, quella sede di CB l'abbiamo, io lo socio, l'abbiamo intitolata a Eliseo Ruggiu, gruppo CB Polo Torres e sede Eliseo Ruggiu, ed era lì in una di quelle stanze che si usavano quando era via Rubesciu. E io gli ho trovato Palacchino al 39 e Antena, pare. E gli avevo dato esattamente a Fernando la Bonaccia, quello con i baffetti che abitava proprio dove abitava prima Tigre, Santo Tigre. E poi l'avevamo messa all'angolo, all'uscita, perché c'erano degli anziani, tipo Vicetto, Fortunato Alfetta, e la faccia boletta che poverino, andava in pensione di Semmuccio, e anche Bartolomeo TGL veniva, tutti la sera andavamo lì, c'eravamo il frigo, ci potevamo, mettevamo da bere, c'eravamo il biliardino, c'erano belle cose che si potevano fare allora, Eugenio, ma cosa vai? Siamo tutti grandi, la tecnologia è avanzata, anche le radio stanno andando allo sfascio, oramai avremmo tutto, cosa ci manca? Telefono, computer, balli, boivara, avremmo due burro di droni, che sta baitani, ma te lo volevo dire, non te lo posso dire, quindi oramai la tecnologia c'è tutta, capito? Quindi è andato tutto allo sfascio, ma in quegli anni lì, soprattutto c'era un mare di CB, perché se tu conoscevi tutta la mia zona bassa, tutta la zona di San Gavino, era tutto pieno di CB, tutto via Sassari, poi quando è nato il villaggio Satellite, il villaggio Leandro, c'erano altre due CB, era tutto pieno, lo scoglio lungo mi pare siano due o tre, c'era quel geometra, non mi ricordo, che guidava sempre il strano, e comunque ce n'erano tanti, c'era Eliseo, vabbè, Eliseo Ruggiu era pastore, si chiamava, poi c'era il fratello, c'era Gojo, Jenny, che vira sempre Guaracchino, Jenny abita prima di Temmi, no Jenny, che c'è sta sempre con la sigaretta trovata, e quello sta sempre con la sigaretta spenta, quello c'è il baracchino, c'è l'officina all'interno, ha visto la cartoniera dei Pedriazzi, la prima si entra dentro, in fondo lui c'ha l'officina lì, e vabbè, però ti ripeto, io mi ricordo in parte, ma mi ricordo tutto, ce n'erano anche lì a Lilioni, lì, perché Lino prima di diventare allevatore c'era un baracchino lì a Lilioni, prima del corvo, beh, c'erano altre due lì, c'erano tanti, e adesso aveva anche la Gran Brea a casa della suocera, al villaggio Satellite, vicino a dove abita la sorella di mia madre che è morta adesso, lì in via Piemonte, via Principe di Piemonte, no via Piemonte, via Liguria, via Liguria, ma non me la metto, comunque lì in quella zona, e Fortunato Alfetta abitava lì lo stesso, dove c'è il supermercato, Vincenzo del Fino Bianco abitava di fronte, poi c'era Primo La Rossa che abitava un pochino più giù, e i Venire Lantenne, tu te li ricordi tutti già, sì? Io sì, io mi ricordo che più o meno c'erano sulle 8 nome di antenne, io sentivo che contavo. C'era una dove abitava anche Cici, mio ex collega, c'era una del palazzo del numero 5, dove c'è il numero 5, un'altra dove c'è il bar del Satellite, su quel palazzo lì, un'altra di fronte a dove abitava Tigre, che quella ci aveva anche i radiali legati con la rete, questo me lo ricordo bene, c'era quella di Sacro dopo, c'era quella di Angelo Asso, quando abitava Satellite, insomma, sì, c'era Sandro, lì abitava Fortunato Bo, Fortunato Alfetta, di fronte abitava Primo La Rossa e Vicente del Fino Bianco. Ce n'era un bel. E vabbè, c'era anche poi verso la parte nuova che hanno fatto dall'altra parte, il Viale delle Vigne, lì c'era Costantino Carioca, c'era l'antenna di zio Paolino. Sopra di voi, che tu hai lavorato al Tourist Market in via Piemonte, in via Principe di Piemonte, eh? Sopra di voi chi c'era, tu te lo ricordi? C'era Tadò, ovviamente c'era l'antenna di Tadò. No, questo non te lo ricordo. Eppure io per periodo ero sempre con la testa alzata guardando le antenne, sempre incantato con queste antenne, avevo una fissazione vicina. Ciao Lu, lì c'era Dio Tadò, c'era il peschereccio, c'era una figlia bella, si è sposata con il fratello di Carolina, anche lì via Petrarca, in piazza Petrarca, dove c'era Rio del Golfo, lì c'era la serie dei veramente dei CB, Radio Club Onda del Golfo. Si chiamava, che poi è nata la sede, la radio, Radio del Golfo, lì c'eravamo la sede, il presidente era Francesco Brancaleone, io, minchia, avevo fatto di casini. Ciao Luca, avanti, cambio. Scaramella, guarda qua. Sì, chi già? Scaramella. Scaramella, chi? Oddio, mi dia che cosa? Riscendendo la piazza Petrarca, dove c'era sempre la pasticceria, lì c'era Scaramella, ci aveva il baracchino. E allora, il fratello è morto uno. Salvatore era a scuola con me, Salvatore Scaramella, e l'altro era, il grande era il nautico con mio fratello, e ero Gresci. E poi lì, aspetta, lì scendendo via Petrarca, quella era via Cosio, che attraversava via Principiemonte, lì c'era un'altra antenna. C'era un'altra antenna che era proprio attaccata dove abitava Mauro Gianni, collega di Eugenio. Ma mi avete chiamato per caso? Mi avete chiamato, no? Ciao Lu, hai parlato assieme a Eugenio che non ti sente. Vabbè, io sono entrato nel 73, nel 75 mamma mi ha fatto la concessione perché ci voleva, io ero minorenne. Quindi sono entrato nel 73, siamo ancora in Ogre, Walter Ugont. Avevo 13 anni quando mi ha regalato il baracchino, la pintosa scarpa, la KB23. Avanti Luca. Tu, una scusa, mi sei entrato nel 73, credo che quando nemmeno vada lì che quando andate in casa. Ma te ne dico? L'ho capito da lui. Ho detto, tu che sei entrato nel 73, Sono belle cose, Lu. Stiamo ricordando il passato, perché ce n'erano un bel. Porto Torres era pieno, ma non solo, Porto Torres, Ottava, San Giovanni, Li Punti, Sant'Orsola, c'era un bel di gente che parlavamo tutti la sera, io mi ricordo, ogni sera scendeva Nando Electronic. Scendeva tutte le sere con Antonello, che poi si è fidanzato con una di San Giovanni, figurati, mi pare che sia anche la moglie. Scendevano tutte le sere a Porto, ci trovavamo tutti da Gavina, ma noi mi da Gavina l'abbiamo combinato, mi già. Avevamo fatto diventare alcolizzato a Domenico noi. Ascolta, ma Nando Lettoni, che era quello di Bancana? No, quello era Cosio. Nando abitava Sassari, una zona alta era anche, adesso non mi ricordo se era via Grazia Veleda o altro, non mi ricordo. Guarda che c'aveva l'azienda Sassari, era rappresentante di idraulica, la mappe, una cosa del genere. E io Nando ci conosciamo una vita. Ce ne erano tutti a Porto Torres, tutti. E poi c'erano le sorelle Soggiu. Topolina, continuamente, le sorelle Soggiu, che sono quelle di Matre Classiche, Fiorella e Antonella. E Radio Antonella e sì, me lo ricordo. Radio Antonella una si chiamava. No, sto sbagliando io, non era l'altro, era Gesuino quello dei bancari, adesso che me lo ricordo. Gesuino, forse era un pesce, non mi ricordo vagamente. mi guanto da buon pugno. Ci siamo visti anche da poco, ho visto a Sassi. Va bene, è un mare Pineda, un mare, come ce n'è ancora che però sono in disarmo, non hanno voglia di rimettere il sesto niente, noi non abbiamo mai mollato, io la radio mi è sempre piaciuta da ragazzino, ho continuato da CB e da Radio Mattore, anche se l'attività Radio Mattore non è che mi piace molto, però mi piace avere tutte le radio, entrare quando ne ho voglia, ascoltare e fare. A me lo carie. Arrivo subito, brava, la lascia a quarta, arrivo subito. E sono il Nino di San Giovanni, ti ricordo. E niente, un profetta, Gianni, ci sei, un profetta. Io non l'ho sentito Gianni, un profetta, perdonatemi, eh. Non l'ho sentito io, mi deve perdonare, ma io non l'ho sentito. È stato che sei così sprizzato, falla sul capomaglia e fai girare in giù, così almeno non sbaglio. Cazzo, per papà. Io sono un po' così, la verità, stanotte ho dormito male, purtroppo il posto dell'operazione ogni tanto si sente, non dico come prima, ma ogni tanto si trovava la posizione per dormire, dopo i muscoli si stanno riformando, quindi ma non voglio prendere più altri dolorifici perché ne ho preso tutti, quindi sono stato sino alle 3:30 senza tutti. Senza dove c'è Giovanni, è lui che la tradisce, c'è Buscabozzi. Tore. Regina Rito va via. Vi saluto, ciao. Sì, avanti. Chi è? Vi saluto, ciao, va a farmi la luce, ciao. Ciao, va a farmi la luce, vai. Portati la radio, ma ne puoi dire lì. Io prendo la grattugia. Ciao Massimiliano, mi dice dove andavo a casa. Ciu. Massimiliano, spiega perché parlate in due, Massimiliano. Ehi, già lavorato, non ti preoccupare. Ci siamo sentiti stamattina, infatti volevo sapere quello se era andato a lavorare. Lasciamo a regia, che aveva deciso. Ciu, Orisetti. Uia, arrasa. Non mi ricordo poi. Vabbè, poi c'erano quelli vecchi là, che sono morti. Nino di San Giovanni, so che è morto. Ma tu frequentavi il Bassone, frequentavo io, non t'ho mai visto io. Ma allora è piccolino proprio. Io tutti i santi giorni, perché c'avevo la macchina, domenico con Gavina, Gianni Rossi era molto amici di Bartolomeo, quindi si abitava alla zona industriale, lì, nella casa della Transportores di Gorgio, come ti chiama, di Ferrarese, e quindi andavo lì spesso, molto spesso, non mi ricordo io di te, e lì è morto Bartolomeo, lì è via Bellini, stai dicendo tu, quando si è trasferito, ma Bartolomeo ha abitato per una vita, Gianni già lo sa, la zona industriale, perché lui lavorava con la Transportores, era autista della Transportores e Guitta, e Ferrarese, se no Umberto Ferrarese, il padre di Tone Ferrarese, gli ha lavorato la casa, e lo aveva ridotto. Galline, tutti gli animali ci avevano, noi andavamo e mangiavamo le uova, ci aveva le uova, era sempre piena di gente la casa, io portavo la Gavina e la Domenico perché non c'erano macchine, e c'era anche la Fordettanus del padre, se per quello, perché si chiamava XL lui, perché c'era la Fordettanus XL, capito? Grigia, e poi l'aveva ricciata rossa Silvano, quello si chiama Silvano. La macchina ce l'aveva lui, Bartolomeo, il XL, e la Bonareva il Giuseppino Querciadoro. Giuseppino Gamboni, che è il padrone, è morto Giuseppino Vicente Stradale, basso, Giuseppino Querciadoro, che già sicuramente l'ha conosciuto, è il padrone del bar che c'è alla Marina di Sorso. E l'antenna che va via Bartolomeo era macchina, mai vista Raidu, che la piegava e la girava, arrivava sino al cofano e davanti, 2,75 era quell'antenna. Anche io me lo ricordo, c'aveva quel colore grosso. Esatto, tu immagini che la domenica mattina ci trovavamo tutti a Balai, tutti, Ernesto, Vincenzo del Filon Bianco, c'aveva la Simca, Bartolomeo Chisiele, Fortunato Alfetta, Giampaolo RC2, che poi andava a prendere Giampaolo Silvestro, quindi veniva anche Giampaolo, io, no, tutti i baracchini a mano. Io da lì mi sedevo nella macchina di Bartolomeo, perché io c'avevo una Colibri, ti ricordi quelle Colibri in vetro, no, in coso erano, non mi ricordo, arancione, ce l'avevo io e Vincenzo del filo bianco, nella macchina, io c'avevo la 126, io mi sedevo nella macchina di Bartolomeo oggi. Ma lo sai come parlavo in diretta con la Liguria da Balai? Una cosa allucinante. E era pure un Rando, figura di c'era anche Rando che abitava vicino all'officina lì, anzi no, bugia mia, via Alfieri quella, sì, via Vittorio Alfieri, era pure un Rando che c'aveva il baracchino. Madonna che tempi ragazzi, che tempi cazzo. Ish. Tu figura c'era il signor Giovanni, allora, ti ricordi il bar vecchio? Già che c'era a Balai, dove adesso avevano fatto quel bar bello eccetera, e lì era tutto campagna, c'era quel bar, una miniera, era la domenica. Sì, ma lo ricordo. Beh, è nato, come si chiama quel bar? Eugì, aiutami. Il bar che c'è a Balai alla rotonda, come si chiama? Esatto, Tropical Bar. Prima lì c'era un bar vecchio, il padrone era molto anziano, abitava lì. C'era la casa e il bar, ma era un baretto, era piccolo. Ma cos'era ieri in vera la domenica? Una goccia allucinante. 3-4 persone ci aveva dietro al banco. E oggi, scoppiccolo su di lungo, era mitica per noi ragazzi. C'era la pizzeria che gestiva Giovanni Serra. Non vai mai Giovanni Serra, poverino. Bei tempi. Era bello, scogli lungo, era una rotonda lì, nata dei Cogli, di una ringhiera, dove c'è stato il giorno si va a Camuglio. Poi è nato, insomma, il ristorante, la pizzeria, la discoteca, il bar, insomma, ha fatto bello. Il primo a gestire tutto lì è stato Giovanni Serra, era di Oliena. Giovanni Serra, il dischi giochi, perché lui ha fatto sempre quello, infatti ha fatto il dischi giochi, a voi siete fuggito con la moglie di Giovanni Serra, il mitico dischi giochi di Radio del Golfo, sempre lui era, Giovanni BK, mi sembra che l'ho conosciuto, però non me lo ricordo, io ti sto parlando proprio di fisionomie vere e proprie, belle cose. E lì in via Balai, Gianni, abitava il fratello di Buzzeguli, erano due fratelli, uno abitava in via Balai, c'era cioè il baracchino, e l'altro abitava in via Principe di Piemonte. Che apriva la croce, apriva un passato di croce, abitava. Bravissimo, quello era Buzzeguli, quello che ci aveva il negozio in via Torre Sacchi, mentre il fratello, quello che abitava in via Balai, dove c'è lì, come si chiama, l'altra pizzeria, ristorante eccetera, Galeone mi pare, a fianco, quello era l'altro fratello. Lui anche da poco se l'aveva messo nell'altra station wagon l'antenna. E ha detto che era del padre e che lui continuava a modulare il figlio, sarebbe. E ha detto questa qui era di mio padre, la stazione, e mi è rimasta a me. E poi ce l'ha messa anche in macchina, si ha messo l'antenna al posto dell'antenna di dietro, se l'ha messa nell'open station wagon. Il cappe di che colore? No, io ho visto un Dodge, quelli americani, con l'antenna al baracchino. Sì, allora già l'ho visto, sai dove? Ma è di Porto Torres, è quello di Sassari. Ma ora invece di Sassari, no. Perché io macchina così a Sassari non li ho visto girare. Se no è di qualche paese, magari traffica Sassari, no, perché c'era pick up, ad esempio quello della Toyota, ce l'aveva Daniele prima, poi ce l'ha cambiato e si è preso la Land Rover, forse la Land Rover bianca. C'erano due antenne, però una era VHF. E l'altra era invece del baracchino, capito? Per quello che lo sto dicendo. Ma c'è te manda laterale, ne sentite? Gente manda laterale, no. Invece qua si sentono bene. Si sente gente manda laterale, aspetta che vada bene. Bugia, se non hai esplato da qualcosa io no. non sento niente, nulla, tutto muto, tutto silenzio, cazzo, io li attendete già, ciu ciu, non come preparo e me ne esco un'oretta col cane, dai, a fare due passi. Mi spiace che Gianni Rubrofetta sia andato via, io non l'ho sentito, sono entrato così, poi abbiamo iniziato questo discorso, pensavo eravamo solo noi tre. Attento Rubrofetta, e Luca già è qua, già sta facendo cosa. No, io al lupo grigio non lo sento stasera, non so dove sia, Sono anche io. Sì, cazzo, hai fatto in prezzo, hai fatto la luce. Cazzo, non è che faccio manco... Ma non lo so, io che pubblici del grande fratello, che ha un'ora, sotto la doccia, tanto lei vanno a pagare niente. Ma no, che la bomba la pago io però. Ah, no, pensavo che te la passasse il comune. Così faccio. E farò così allora. Va bene, dai, con la buona sera a tutti, dai. Mamma mia, un po' di ore da volo, già. Ciao, lasci vediare. Adesso sei rientrato, lasci. Quando ho schiacciato la portante che vi ho salutato, stavo andando in doccia. Da stamattina? E allora, raga. Io, così che ti danno la medaglia. E beh, con cuori. Capirassi di te, di denari per tu, senza far nulla. Per mettere dentro 10 rimorchi. No, sto scherzando. Ciao, già, buonasera. Ciao, Cimilia, ma com'è che non devi andare a lavagliare? E travagliare di la purtroppo, per il lavoro che faccio io, non c'è ancora il decreto, quindi cosa fa? La ricca mica si ferma. Vabbè, se non mi danno cassa integrazione o qualche cosa non posso rimanere senza di nada. Non clama, tu lo conosci anche a ridottio Luca, un po' povere. Non ho capito, oggi ti hanno sopravvolato. Ti manchi il cazzo, io sono andato, guarda, alle 3:30, perché stamattina non ce l'ho fatta, stamattina ho fatto macelleria, ho rifornito tutto il freezer, ho messo un po' di carne in freezer e frutta e verdura. Alle 3:30, tanto non sapevo già fare, sono andato al supermarket, all'Eurospin, ho fatto un bel po' di spesa, non so che vedo di spesa, ma senza saltare niente, cioè tutta la cosa che serve a casa. Sono caricato il cofano della macchina di acqua, e ora non me la putti di nulla, vado con una guida e per andare al supermercato, però non c'era nessuno, c'erano 3-4 persone, e ti dico che è tutto pieno di roba, tutto, carne io non le prendo le Eurospin, l'ho presa in macelleria, però c'era di tutto, non mancava niente. Sempre bel fornito, c'è delle istituzioni qui che non manca mai nulla lo stesso. Ci sono anche le offerte adesso, non per fare pubblicità, ma ci sono le offerte. Gianni, se chiudono i furti, le offerte non le fanno più, perché non arriva più merce. Lo so, ma un polmone bello pieno ce l'abbiamo. Noi ci abbiamo il CIVI, capito? C'è tutta l'istituzione merci che è enorme. Non c'è una pedana solo, c'è un 20 pedane per tipo di roba, 30 pedane, capito? No, Massimiliano, ha detto la televisione che hanno chiuso i porti per le persone, però le merci stanno viaggiando. Oggi allora com'è? No, tu sicura. Le merci continuano a viaggiare, i porti, gli aeroporti non possono transitare persone se non autorizzate dalle regioni, ok? Perché ad esempio sono rientrati 300 sardi che era fuori per lavoro, sono rientrati perché le aziende si sono fermate e sono state autorizzate a rientro dal presidente della regione. Quindi attenzione, no, così ha detto la televisione. Però i mezzi stanno viaggiando, le navi con soprattutto solo esclusivamente mezzi di trasporto, quindi alimentari e cose che devono viaggiare. Non lo so oggi, quello è il tuo lavoro, non lo so, io sto seguendo la TV, questo hanno detto e questo c'è, cioè, addirittura a Genova, al porto di Genova c'era un container pieno di bancali di mascherine, in AS con l'autorizzazione del prefetto hanno requisito questo container e l'hanno destinato, quindi l'hanno praticamente sequestrato, requisito e destinato all'ospedale della Lombardia. Claudio. Quello lì sì, Cagliari di Genova, adesso mi ricordo comunque. Per dirti, dimmi Marco. adesso per dire quanto è bella l'Europa, no? C'era un grosso carico di mascherine destinato all'Italia, presumo proveniente dalla Cina. E siccome aveva provato in altri stati europei, stavano facendo di tutto per trattenerlo e requisirlo e usarselo all'interno del paese in cui si trovavano, capito? Togliendole a noi che erano destinate a noi. Bella l'Europa, bella cagata proprio. Marco, adesso è magna magna. Adesso chi fa prima, capito? È chiaro che adesso i controlli devono essere più ci vuole molta più attenzione. Perché lì adesso entra in mano tutta la situazione mafia, capito? E quindi ognuno si prende la roba che serve a lui. Però ci sono molti controlli, come sta dicendo Eugenio, appunto questo container, che era destinato a una farmacia di Genova, l'hanno requisito e l'hanno praticamente destinato all'ospedale della Lombardia che ne hanno bisogno. Mascherina, c'erano mascherine, guanti, occhiali e tutte. Quindi così bisogna fare, perché veramente, credetemi, non ce n'è mascherine. Io sono andato alla mia farmacia qua, che conosco il titolare, il dottor Masola, e mi ha detto: guarda, credo se riesco a procurartene due domani, due o tre, proprio per te, perché non ce ne stanno mandando e niente. Ma adesso chiedo in Difarma se ce li hanno qualcosa, ma te le procuro, perché non c'è nulla, sassi. Vabbè, meglio così, per cambiare discorso. Ma Svegliano, dov'è che stai lavorando? Vicino all'ospedale? Claudio, ma tu che mascherine vuoi? Quelle chirurgiche o vuoi roba più sofisticata? No, quelle chirurgiche non ne ho problemi, me le danno le forte vanno imbiati, no? Io voglio quella normale, quella bianca che aderisce bene al naso e al mento, quella di voi. No, chissà, fatta il cazzo. No, stai facendo benissimo, sopra l'avrei detto. Alla grande, 5 perfetta, bella amplificata oggi, sopra l'avrei detto, lo sai, io quando sento qualcosa che non mi piace ve lo dico subito. Massimiliano. Già sono qua io, se senti proprio bene. Ti ho rilanciato, cazzo sei, batta le mani, blu. Ti rilanci e non riprendi. Ti ho chiesto se stai lavorando vicino all'ospedale. A quale ospedale? No. Alghero. No, negativo. Ah, e quelli che stanno lavorando lì vicino all'ospedale civile chi sono? Un'altra impresa? Non siamo noi quelli lì, noi stiamo facendo un'urbanizzazione. No, qui stanno facendo scavi di cavi, cavi, tubi, non lo so. Così mi ha detto mia nipote. Dove siccome c'è... Vabbè, già te lo dico. Poi qualche momento dovevo andare a vedere una cosa, invece non si può andare, capito? Pensavo che eravate voi lì. No, quelli sono un'altra ditta, stanno facendo il gas, capito? La Concordia dice. Vabbè. No, dovevo andare lì perché dovevo vedere una cosa di lavoro, però non li posso muovere, non ci posso andare. Vabbè, passerà. Nessuno si arrangia. Bene, raga. Massimi, sei fatto in ritardo, ti lascio con loro, io mi preparo per la portare a Filippo, sono già alle 7.20, eh. Ok, se ci siete rientro dopo, un quarto d'ora, e sono nuovamente qua, io sto a fare i bisognini, ok, a dopo raga. Andavo, sei fatto in ritardo qua, io sono stato quando posso, stavo lavorando, volevo più prendere, no? Va bene, ok, riprendi Gianni. E allora, ciao Claudio, ora così greca. Siamo qua, dai, non c'è problema, sino alle 8 almeno ci siamo, perché poi quando stiamo per il telegiornale, che c'è una paranoia del coronavirus. A parte Eugenio. Eugenio, c'è presto, Eugenio. Poi, tu bella. Sì, ti abbiamo rilanciato, là, che Claudio sta uscendo a portare il cane. No, non accetti critiche perché è una bella modulazione. Bella, forte, presente, bella, chiara. Te l'ho detto anche l'altro giorno, che preferisco questa la radio all'altra. Anzi, si può fare anche un'altra cosa in quella radio. Si può anche aumentare un pochino. E chiusa. Capito? Se la apri appena di modulazione, con la radio non la pompa. Cosa che sono primerino c'è da girare. Va bene, guarda, con la modifica mi sembra che la sa fare Gigi. Io l'avevo fatta a un MP5 che poi ho venduto. Ho detto, se vuoi fare un esperimento per uscire un pochettino meglio, se già esci benissimo, nella capsula dell'MP5 al posto di mettere quella con lo sfondo marrone si mette quella con lo sfondo verde. Si trova anche in quei giochi, quelle chitarre, quei microfonini più robusta, è un altro tipo di radio, va. C'è un'altra scheda madre, e tutte cose. Mi sembra che c'è anche Marco Condor, vedevo. Trombo con l'altro, è mica ho finito, no? Ancora è lunga la serata, la passo mangiando, così metto succhini. Naturalmente oggi conta, pensaci due volte a me prima di dare i baracchini, diciamo, dall'epoca lì, perché adesso sono tutti SMD nuovi usciti, boh. Sì, funzionano, però non mi ispirano molto. 3009 che hai in più è tutto componenti classici, quasi tutti, pare 99% componenti classici, e credo che non ne troveremo più in futuro con i componenti così, sono tutti SMD, tutti, dai più piccoli omologati ai più grossi. Eia, comunque anche l'Uranus ha componenti classici, vero Massimiliano? Positivo, positivo, sempre dalla famiglia del 3009, del Galaxy, del Pluto, del Tornado, è sempre tutta una famiglia. Quello che ti dovevo vendere, poi ho cambiato idea. Ce ne sono comunque in giro, Vabbè, se non trovi il pigliatino, se lo trovi a poco prezzo, poi quando sarà l'occasione quello lì lo dai, cosa di no? E dentro è un armadio pieno, cosa c'entra? Se ne hai uno in più va a Napoli, no? Ma funziona sempre? Sì, un po' rumorosa in ricezione. Cioè, in macchina io la considero rumorosa in movimento. Da fermo, sembra che non avesse ANL, o comunque era di default, ma non era un granché. Qua il 3009 in macchina è il più silenzioso. E ne ho provati tanti, di questi nuovi, 5005, che sarebbe il CRT 6009, 7009, 9009. Però il 3009 in macchina è il più silenzioso, non c'è nulla a fare. Tutto bello cromato, vecchia guardia, però conta una cosa, vecchia guardia però produzione fino a 2 anni fa li vendevano. Cioè produzione attuale venduti fino a 2 anni fa, poi vabbè, la Proxel non li ha più portati purtroppo e non credo ne troveremo più, a meno che qualche altra ditta non li importi, perché li importava la CRT francese e la Proxel italiana, i 3009. Poi non ho più visto in vendita nuovi, dicono usati no. Aspetta, ma tu mi stai dicendo che modello i 3009? Quello 240 del canale o questo omologato? Perché questo nasce omologato, con tanto di bollino CE che vogliono tanto adesso, certificazione CE, non so cos'è. Tu qual è la versione vecchia che nasce 240 canali? Addirittura, poi rilancio Massimiliano, sì, sono tre pin verticali, tre pioline verticali, c'è un cappuccetto che conduce, tipo tra l'1 e il 2, 40 canali, lo metti tra il 2 e il 3, 240 canali, addirittura se volessi potresti collegarci qualche interruttore magnetico in modo da commutare qualche telecomandino, no, come per il 48, per commutare i canali normali e i canali extra. Cappa, vai Massimiliano. Marco, questo Superstar 360. Ripeti Gianni. Superstar 360. Sì, quello che ha le manopole tondeggianti. Sì, è un modello anche, mi pare che sia il predecessore del 3009. Cioè il 360 e 120 canali, no? E poi hanno fatto contemporaneo, subito dopo, ti parlo di 30 anni fa, siamo 35, il 3009, i primi modelli. Adesso siamo arrivati alla scheda madre, mi pare, PT36615F, mi pare. Cioè gli aggiornamenti, le migliorie, capito? Vai Massimiliano. Costa 380 euro. Dilia, c'era qualche amatore che lo vende a quel prezzo, dai, è un prezzo fuori mercato, dai. Massimiliano, prendi un attimino, che ho il telefono dietro. Galaxy Pluto è una bella radio, No, non ce l'ho. Ne ho avuto 2 o 3 e li ho venduti. No, io ho il Tornado e il 4005, che in poche parole è come il 3009, uguale. Sì, però il 4005 è 240 canali, quello omologato era il 34S, giusto? Positivo, l'omologato era, questo qua è, in poche parole è uguale al 34S, solo che c'ha 4 bande in più. Lo dico perché Pomponio, a Pomponio avevo dato il Connex 4000 Eco, no? Quello grigio, tutto grigio uniforme, no? Sempre tipo 3009. E lui ci voleva mettere la mascherina e le scocche del 34S e credo anche la targhetta della locazione, capito? Vabbè, lui già ne faceva di queste. Se sapeva omologato uno Iesio FT7B, ci aveva messo la targhetta negli anni 80. Sai cosa c'ho io di omologato come baracchino proprio a norma c'è? Il Venus. Ah, quello col microfono, il microfono che ha tutto in uno, display, frequenzimetro, tasti, carino. Guarda, a me piace molto, sai quale? Stessa concezione, il CRT mic. E c'hai una scatola nera da dove parte il cavo e poi tutti i comandi, tutto display, tutto sul mic. Però dicevo io, se per caso si interrompe un cavettino all'interno dello spiralato, sai, tira e molla, praticamente ne esci di buttare la radio. Vabbè, tanto ce l'hai lì ed è omologato, capito Marco? Sì, uguale, il Venus FC dentro. C'hai tutto, parla, ascolta, fai tutto dal microfono, capito? Frequenzimetro, tutto da lì fai. Ah, sai chi ce l'ha pure? Antonio Pombolo. E ti dirò che quando entrava col Venus usciva bene di radio, ci usciva bene, non sembra nemmeno quell'apparecchio lì. Infatti da tener conto, almeno per la concessione, io questo c'ho, questo per esempio, la modulazione non è espansa o massimiliana, qua il trimmer dell'M l'ho lasciato com'è, la potente l'ho lasciata com'è, i canali lo stesso, invece quello col display rosso è diciamo quello col export. Potresti proporlo al profeta, vediamo se c'è all'ascolto. Mamma mia, la gola mi sta prendendo. Cioè, quello che a lui è quello che piace a te, bisogna vedere se lui è d'accordo. Oh, il profeta ci sei. Ehi, avanti. Io fai cambio con un apparecchio similare, ma analogo, diverso ma analogo. Marco, la radio è la tua, quindi cioè, io non devo decidere niente. Quindi la verità è siriglia, cioè le cose come stanno, cioè queste sono le cose come stanno, quindi voglio dire, no, se Eugenio mi manda una bella fotografia dettagliata, boh, gli do uno sguardo, io problemi non ne ho, ti ripeto. Posso? Eia, vai. Allora, senza offese, mio Gianni lo profeta, senza offese, ma quella radio, se vuoi fare lo scambio, è molto superiore a quella che usi tu. C'ha molte più cose, sintonia continua, frequentimetro, c'ha molta più roba di quella che c'è tu. Schermo bello grande, c'ha una bella tastiera, bello, una bella radio, secondo me. Marco, guarda che ti ho mandato una foto di quello a norma c'è che sto usando io. Ciao Massimia, buonasera. No, per carità, non voglio essere frainteso, cioè, che sia chiaro, Marco mi ha fatto questa grandissima cortesia, di prestarmi questa radio, io ce l'ho qua a casa, la sto trattando, insomma, come se fosse la mia, e quindi, io problemi non ne ho, vi ripeto, per essere chiari, schietti e sinceri, il padrone, il vero padrone di questa radio è Marco, che poi me l'abbia prestata, me l'ha data incomodato d'uso, me l'ha data, boh, cosa ne so, comunque la radio è la sua, poi per carità, cioè io non ci vedo nessun problema, mi piacerebbe vederla più nel dettaglio, se Eugenio ha voglia di mandarmi qualche foto, poi per il resto no problem. No, te l'ho detto prima giorno, la radio è la tua. Poi cosa abbiamo detto? Quando ci vedremo mi offrirai un caffè e suggelleremo la cosa. Io non lo usavo la radio, era l'unica che non usavo mai. Non lo so il perché, forse è perché l'ho comprata da un certo venditore di Lucca che mi stava sulle scatole. va bene. Massimiliano, bello, bello, bello, omologatissimo, bello. Quello è bello, caspita. Non lo so, se vuoi fare il cambio o qualche altra cosa. Scusate, entro un attimino. Eugi, fai una cosa, mandami qualche... fagli delle foto, insomma, un po' nitide, un po' chiare, e me le mandi. Io, cioè, veramente, a parte gli scherzi, cioè, io non ho grandissime pretese, te l'ho detto, vi sto dicendo la verità, cioè, voglio dire, ringrazio Marco per la fiducia e per, insomma, per questo omaggio. Io problemi non ne ho, per cui se mi mandi delle fotografie, gli do uno sguardo, e, cioè, io problemi non ne ho, quindi, boh, se riesci a mandarmi qualche fotografia, vedi tu poi, boh. L'unica cosa è che non è canalizzata la parete così. Scusate, un'altra volta, ascolta, ma a me se non concesso che vogliamo o non vogliamo fare lo scambio, riesci a mandarmi qualche fotografia e poi lascio spazio, vai. Va bene, ok ragazzi, proseguite, dai. Se no, proprio non ce l'hai internet, cerchi Galaxy Uranus e te lo dà. Uranus o Uranius? Uranus. Ehi, a Galaxy Uranus. Scusa Gianni, una fretta che poco fa non ti ho rilanciato, ma non sapevo c'era anche tu. Tranquillo, cara, no problem, dai. Ho visto che eravate belli infogati, rifangando vecchi ricordi, quindi tutto a posto, dai. Gianni, guarda che ti ho mandato una foto su WhatsApp, guarda. Massimiliano, veloce. Dimmi. Allora, ascolta bene questa modulazione. Questo è quello col trimmer chiuso di serie 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Adesso attacco quasi istantaneamente l'altro, riprendete, si fa sentire il trimmer chiuso e il trimmer aperto la differenza. Stesso mai. Capa Roger, dicevo, Gianni Rupoffe, guarda che ti ho mandato la foto su WhatsApp. Capa Roger. Bello, una bella radio. Avanti OG. Dai, allora magari, perché forse ho sbagliato tipo di file. E poi va. Ora 1, 2, 3, 4, 5, allora, questo altri, scusa, c'ho un mal di gola per conto mio, non è il coronavirus, già non attacca via radio, allora, questo è quello display rosso, qualche cavale in più, watt uguali, microfono travasato lo stesso, poi col trimmer tutto aperto, dimmi se cambia qualcosa. Sì, cambia la modulazione e cambia anche il segnale. Il segnale? Ma è peggiorato, no? Perché in teoria dovrebbero essere sempre 3-4 watt. Sì, però qua mi fai da 8 a 9,5, l'altro fai da 7 a 9. Ma può darsi che ci sia 5 mi anziché 4 watt, vabbè, quindi questo è il microfono di serie degli apparati che è uguale ed è marcato star e il trimmer è tutto aperto e i picchi vedo che sono maggiori, infatti, va bene, per fargli un'idea anche a Eugenio mi aprendo il trimmer, se in più gli metti anche l'MB più 5 non te ne dico nulla. Claudio, ci sei, riprendi, vai di profetto. Aspetta, sto guardando le foto che mi ha mandato Massi. Ok, dai, avanti qua. Forse Claudio non c'è. No, è per quello che te lo sto dicendo. Aprendo il trimmer in quella radio esce già molto un pochino più forte. Quindi anche di segnale, vedi, i picchi più che altro di modulazione ci sono in più. Qua è successa una seccatura. Usando il cavo grosso, la RG213 che flette, cioè che è rigido sul bocchettone, allora all'interno questa radio, che è omologata lo stesso in origine, aveva all'interno del PL quella scatolina col classico filtro P greco anti-TY, no? Quello di serie, facendo trazione praticamente si è dissaldato internamente il centrale dentro la scatolina ed era tutta saldata, non so come abbiano fatto a chiuderla, l'ho dovuto bypassare, praticamente il filettino diretto come non omologati dallo stampato al bocchettone PL, capito? Quindi questo non, come omologato non si può più usare, purtroppo. Lo so. Claudio, ci sei? L'ho vista, questa è una foto che mi avevi mandato quando eri in dove la metto più? Quando eri in Kenya, bravo, sì, me l'avevi mandato. c'è un HF messo sulla macchina. Scusate, rientro un attimo veloce. Vabbè, adesso magari me le cerco su internet. Ma o Massimiliano o Eugenio, mi dite più o meno le caratteristiche generali, a parte bande, vantaggi e quant'altro. Ho capito, ma dico, quello l'ho capito dalla sintonia continua, dico le caratteristiche generali, cioè insomma. Che cosa c'ha? C'ha banda laterale, CV doppio, AMFM, vabbè, tutte queste cose. Adesso non mi ricordo se quella radio faccia da 25 a 29 mega. Mi pari, oggi tu ce l'hai, non lo so. Lo scanner! Ah già, dice ancora. Certo che ci sono. E qua nella concitazione, credo che si chiuso. Mamma mia, c'ho la voce alfona, è preoccupante. Ok, dai, sto guardando delle foto qua su Google. Adesso vediamo se riesco a scaricarmi la scheda tecnica, così magari me la leggo piano piano. Dai, riprendete, ok. Appagata, ma... vabbè, un apparecchio un po' particolare. Io ne ho avuto uno simile, che però non si chiamava Urano, si chiamava un altro nome, adesso non mi ricordo. Era preciso lì. C'aveva anche la batteria interna che teneva le memorie. Gianni, doppio. Eia. Allora, peraltro, questo Uranus, no? Così si chiama, sì. Mi era venuto anche, veniva venuto come RCI 2900, oppure Sommerkamp TS789DX, identico. Sì, sì, RCI, quello lì, ma era uguale lì, sì, sì. E poi l'avevo venuto, da poco, mi pare. Ehi, c'è un bel display grande, mi ricorda, sai che cosa? Quello blu, quello americano, porca miseria, quello che faceva di guai, ma non mi viene. Comunque c'è un 3900 che mi interessa. L'Omega Force, mi ricorda il display dell'Omega Force, cioè c'ha sia il display a lancetta, sia il display per le frequenze e tutte le funzioni. Cosa mi ha detto John? 3900 ti interessa? Guarda che ce li ha a Radio Smitter su eBay. Su eBay, devo trovare il nome, no, Radio Smitter, il venditore, ce li aveva sempre, purché sia la versione omologata, poi ovviamente è disomologabile, no? Che altro per il coso CM, per queste rotture che si sono inventati, per rubare i soldi a noi. Andare. Dopo prendo scambio. Ah, te ne ricordi Claudio? Tu, tempo lì dove li fa? Il negozio, finiti io? No, io baracchini ce l'ho dentro l'armadio. Poi c'ho 430, 440 e 140. E poi tutta la parte HF, voi, un po' basta, baracchini, tutti conservati. Chi è che sta vendendo? No, io chiedo, sta dando l'Uranus, ha detto che ce n'è più e lo sta fatto. O scambia o lo prende. Io gli ho detto, Virginio, basta che venga qua, se ne sceglie una, se la porta via. Direi Urano, se non mi vuoi Urano, cazzo, da girare due, io ti ho girato Massimiliano, anch'io l'ho girato Massimiliano. Te l'ho detto, quando vuoi, lo sai che non ce n'è problemi tra me e te. Come, quando vuoi, non ce n'è problema. Nessun problema. Sì, io ne ho, ne ho anche troppe. Devo entrare un 680, ho rifiutato, se no facevo 430, 440, 140 e 680, borra. No, detto qua non le voglio, voleva una delle mie radio, un base che c'ho voi, lui mi dava quello, detto qua, no, non te la do perché non me ne faccio niente, cioè rimane lì ferma, 140 è sempre spento, lo accendo ogni tanto, uso più 430 e 440, però c'ho anche quella. Era di Giampaolo, quindi la tengo. Entro un attimo a volo, scusate. Allora, questa radio esce marchiata anche, aspetta, fammi vedere, RCI 2009 e poi Sommerkamp TS 789DX. RCI, marchiata RCI. RCI, come le altoparlanti. Cosa vuol dire? RCI. RCIA. Vabbè, scusate, l'ho pronunciata L'ho pronunciata in inglese, Ranger RCI, RCI, dai, 2009. Sì, cazzo di nuovo, pare una gassa armonica. Sì, sì, sì. Vabbè, si è sconfuso. Ciao, sì, ciao. Attento a chi ti posso vedere un testamento, un viaggio che ha fatto, già che muoco all'improvviso, o di coronavirus, o di vecchiaia. Capite? Io ho già fatto un testamento, eh. Quindi dovrei consultare prima una persona che è qua presente, perché mi sa che il testamento è già fatto. Ora ti infila. Quel 140 qua glielo puoi anche dare, dai, va a Napoli. A potrei prendersi questo Galaxy Turbo, si piglia 140 e appunto. Vabbè, sicuramente è molto meglio, alla grande. Alla grande, che quello ha un valore affettivo, perché presidente, non lo vorrei dare. Non lo vorrei dare, perché lo dice un po', ma guarda, qualche graffiettino, perché giustamente una radio un po', ma c'ha una funzionalità perfetta, veramente perfetta. Veramente molto bella, sia in trasmissione che in ricezione. Va bene, dai. Comunque già ci sentiamo, lascia passare questo virus, poi quando vuoi venire a trovarmi ti faccio vedere un po' di radio serie, però no roba, capito? Ti faccio vedere un po' di radio serie funzionanti, come funzionano, come non funzionano. Radio HF, no roba racchino. Va bene, avanti Gianni Rubrofetta. Aspetta, Eugenio, portagli via il 430 a Claudio. E allora, non mi ammazzo prima. Ciao, non si tocca il 430. Preferisco dare il 440. No, il 430 via, non si tocca. Ce l'ho più di 10 anni, non l'ho mai dato. Mi ho venduto il radio, quello me lo so sempre tenuto. No, non si tocca, capisci? Assolutamente no. Avanti, Rubrofè. Eia, vabbè, dai, mi stavo ormai... Sembra che tutto sia già stato pianificato e deciso, quindi l'argomento si chiude qua. No, vabbè, scherzo. Cioè, adesso mi stavo scaricando un po' di fotografie, ho trovato il manuale e me stavo scaricando il manuale, poi dopo magari con calma me lo leggo. Comunque, niente di che, dai, sono contento che poi alla fine si sia trovata una soluzione. Vabbè, comunque grazie per le info e niente, dai, avanti Massimiliano. Positivo, dai, intanto saluto Eugenio, buona carichetta, buon tutto, vai doppio. Scappa, ciao Eugenio, ci sentiamo, vai, buona carica, a domani, se Dio vuole. Scappa, gappa, e riprendi mano. Ciao Eugenio, dai, ci sentiamo le prossime, buona serata, buon tutto. Dai, riprendete voi che io mi sta mancando la voce a me. Sai, io Gianni, un bloffetto, qual è il problema? Che io ho un testamento, no? Dove ho già messo praticamente tutto, ho fatto lo scritto, perché tutto quello che c'è qua, praticamente questi due piani e mezzo di radio HF, VHF, VHF, 430, 440, 140, tutti i microfoni, tutto quello che c'entra armati, eccetera, va a Massimiliano Bulldozer, no? Lui questo lo sa già da diverso tempo. Sai qual è il mio problema? Siccome lui è abituato che prende a mucchia, c'ho questo, c'ha tutto, allora lui si stufa come sta facendo tutto in dinà, e io non lo potrò mai sapere perché sono morto, quindi bisogna incaricare una persona che mi tenga informato. Tipo una sorta di, dai, un garante, dai, un tutore. Bastardo. Tanto perché hai capito già, e dovresti uscire, no? Cazzo, bellissimo, lui c'ha tutto, come sta fa un blocco, lui c'ha un amico suo, no? Mette tutto sul film, fa le foto e passa in tutto, ci vende tutto, boom. E quindi il testamento non va più bene, capito? Quindi sto pensando di mettere una clausola sotto, però a me chi mi avvisa? Bisogna che metta come garante mia figlia per sapere se lui fa funzionare tutto in regola, perché sennò è un casino, Massimiliano. Ci metto una clausola sotto, Grazie, ti prometto che io te le faccio funzionare tutte, quella radio, tutte. Poi i valori affettivi non si vedono, ricordatelo. Vabbè, però poi non è che ti tu che te li fai in dinamo. No, oltretutto mi devi dare pure il piano dove stai mettendo, perché sennò non la metto tutta la radio. Quella te la regalo, anzi ce la vuoi già, una ce l'ho. Quella che ho tolto ce l'ho, che ce ne ha due piedi, ah sì, perché l'ha messa sotto quel piatto di ferro che aveva fatto Giulio, la L l'ho già tolta, ma si vede, tu ce l'ha, tanto non vieni qua, poi sei, adesso vieni tu gatto di virus, quindi se no, certo, compresa di scrivania, compresa di base con il ripiano in noce massiccia, tutto il lavoro che ha fatto Giulio, tutto. 1, quindi c'hai l'MC50, 4 MC60, l'MC80, 2 SM20, 2 MB più MB più 4, MB più 5 e TAM più 3. Meglio di così. Sì, allora vado alla grande, claro. Mi prendono anche la patente poi quando muori tu. Tanto quella è compresa, Massimiliano, ti do la mia, ti do tutto, nel testamento c'è scritto anche compresa licenza e patente da radioamatore, tutto. E va bene appunto, intanto gioco molto, tu continui a entrare, io sono zero BFB, qual è il problema? Anche che chiamate Claudio, ti chiamerei Massimo, grazie a tutti. Però tu hai ragione, guarda, non me ne prendo, va. Non ci vuole niente, non ci vedi, fai la fila, prendi il numero, vai all'anagrafe, cambi, c'è Claudio, no, guardi, io da oggi mi chiamo Massimo, e basta. Il problema è risolto, non è che tanto pochi bene vai giù io, pochi bene vai tu, cicciottelli siamo cicciottelli, cassino a tutti. Tu hai ragione. Guarda, stai lì, eviti di stare, andare a fare esami, tutto. No, ti ho tutto compreso, Massimiliano. Tutto compreso, guarda. Peccato che le antenne, vabbè, le smontiamo, però anche le antenne. Anche le antenne poi prendi tutto, non è un problema. Ci sono gli alimentatori, e tutti gli strumenti, quello da Revex, e ce l'hai di roba dentro l'armadio, ma ci vediamo. Quindi quella roba minuta la puoi vendere, baracchini, tutti i baracchini, eccetera, quelli li puoi vendere. E tieni tutto qua, la base che ho io adesso, bellissima, con tutto sistemato alla grande, tutti HF, tutti base, e tu sei, che mica con nada. Bene, sono andato, doppio route. Ottimamente bene. Massimiliano è fortunato che viene lasciato l'eredità, dai. Che ha pagato, coglia. Marco, tu non c'hai niente da ereditare. Da ereditare i debiti, da lasciare cosa lascio? Due baracchini lascio. O due Bao Bao magari. Coglia, non ereditare. E chi lo sa come gira l'altro vita. Coglia. Come sono detto il coronavirus, non so se dici con tutti i carti vivi da tu. Aspetta che mi tocco le balle. Anche io me ne so con due che. Eia, no, guarda, baracchini validi, io faccio 2.009, 5.005, 7.009, 9.009, gli omologati non si contano perché sono, vabbè, robetta. Quel giocattolo che ha visto Claudio, che è un giocattolo, è un portatile camuffato da veicolare, te lo ricordi Claudio? Sì, sì, alla grande. Ah, Massimiliano, devi aggiungere 12 portatili, tutti di cui quelli digitali, quelli analogici, uno senza caricabatterie, uno, e gli altri sono tutti a posto. Forse qualche caricabatterie è buono che ce l'ho anche io, non c'è problema. Oh ragazzo, io vado a sentirmi il telegiornale, dai che ho qualcosa di importante da seguire, vedere se si blocca qualche cosa di lavoro qua, vado a sentirmi un po' il TG5, dai. Mi ha fatto piacere, bella chiacchierata, mi sono divertito, poi già ci aggiorniamo qua, con questo coronavirus è un casino. Capito? Già verrò più tardi poi a prendere il tutto là. Poi quando finisce questo coronavirus inizio già a portarmi via qualcosa, non si sa mai, che cambia idea, capito? Dai, momentaneamente vi saluto, buona serata e buona cena a tutti quando la farete. Ciao! Ciao Massimiliano, ciao, buona carica a te, grazie per la compagnia, dai. Avanti Marco. Ciao Massimiliano, buona cena, buon tutto. Fagli la fattura a Claudio, così si entrano prima le radio. Vai Claudio. La fattura. Oh, guarda, ti faccio il tuo video. Ciao Massimi, quando vuoi, appena passa con la visita, ti andiamo a piazzare subito la base. E iniziamo a mettere qualche cosettina, capito? uffici portatili che vi ho, mica, ogni tanto ne carico uno, lo accendo, ne carico uno, lo accendo, cazzo, 12 ce li ho, mamma mia, 12, tra Voxon, Ikea, tutti quelli analogici, VHF, VHF, vissi, Maria Gaia, quanti ci sono buttati. Ciao Massimino, dai un bacio a Gaia, Daniela, ci aggiorniamo domani, ci sentiamo per telefono. Vai, non profe. Ciao Massi, buona serata e buona carica, dai, a presto. Oh, iai, iai, iai, iai. È Natalino, non sta più entrando? Sì, è entrato qui. Ah, proprio quando non c'ero io, va bene, dai. Già capiterà. No, infatti non l'ho più sentito questi giorni, vabbè, sto entrando tardi, ma così a sbalzo. Ehi, uia. Tanto di fatto ribassare la gara, mi fate ribassare la gara. Che palle. Vabbè. Ok, cosa stavo dicendo, Lombrofè? Volevo dire un'altra cosa. Ah, perché non avevi sollevato il trimmerino del Mickey Gay interno di quella radio? Solo la potenza? Negativo, qua. Marco mi ha dato dei suggerimenti, mi sono scaricato il diagramma, cioè lo schema da internet e ho trovato il trimmerino della potenza e l'avevamo fatto insieme sul 20 e mi sono orientato con lo strumento che mi hai omaggiato e abbiamo trovato praticamente quando se metto il trimmer della potenza al massimo va in picchi negativi, per cui abbiamo concordato con Marco di lasciarlo intorno ai 7-8 watt. Sì. Sai perché, Claudio? Sì, mi ricordo, sì. No, va bene, c'è una radio favolosa, sì, 9-10 abbondante, i watt vanno bene. No, va bene quella radio, Marco. Sai perché? Cioè, il finale è sempre MOSFET, no? Però è mono finale, non di quelle che hanno due finali, che io ricordi. Quindi se li dai, ma anche qua lo fa a me, non so se qua siano uno o due, quando comincia ad andare oltre i 7 watt comincia a chiudersi piano piano la radio, se viene dai 10 la radio perde troppo, perde tantissimo, io preferisco lasciarne 4 e avere modulazione migliore però, ma anche per pilotare altre cose, no? Siamo capiti? Sì, ma va bene, ma guarda, io sono col 440, adesso sto andando con modulati 10 watt, quindi l'importante saranno 8 lo stesso, neanche, 12 watt modulati, 7 watt, 8 watt, l'importante è bianco. Non serve a niente stare a sfruttare anche le radio grosse che hanno più di 100 watt come le mie, stare lì con 50 watt, 100 watt, non se ne va. Cioè, ci sentiamo lo stesso, va bene, non voglia. Gatto, gatto. E invece il cane già portato, vai. Io non posso andare, non manco la portata. Ah. E vabbè, già. Ancora non riesci a camminare bene? No, camminare già cammino, non mi sta con subito. Fresca la cosa. Addirittura la comunità che si è un po' aperta e adesso si sta richiudendo, ma invece l'ho colpita da qualche parte, era per la chiusa, certo, come l'ho colpita deve essere nel qualche spigolo, qualche cosa. No, adesso non sono ancora in condizioni con quelli scendere giù, di camminare, no. Scusate un attimo, una cortesia, prima a Marco e poi a Claudio. Marco, adesso mi ha incuriosito quello che ha detto Claudio. Allora, oltre al trimmer della potenza, Claudio stava dicendo che ci dovrebbe essere un trimmer per praticamente una sorta di controllo di guadagno del Mickey Gain, giusto? Sì, il trimmer della modulazione AM. In questo è aperto tutto, in quello omologato è di serie, credo che sia o metà o poco meno della metà, adesso non mi ricordo com'è in origine, però io non mi ricordo se te l'ho dato già aperto o non aperto, presumo aperto però, io come te l'ho dato 40 canali o molti di più diciamo. No, qua canali ce ne ha a dismisura. No, allora presumo sia già aperto. Tanto vale, se apri i canali apri anche la modulazione, cioè inutile, capito? Va bene, riprendete un attimo messaggini. Sì, se non mi inganna la memoria, mi pare che le ultime prove, prima di darlo a te, Marco avesse già provveduto ad aprire anche il Mickey Gandy, praticamente il trimini del Mickey Gandy, mentre i Vatti li aveva lasciati così, li aveva lasciati bassi, perché lui aveva una sorta di gnaretto, quindi aveva deciso così, però tu non avendo l'ignaretto con 8-10 watt sei a posto, va benissimo, sì, penso sia già aperto già, perché la modulazione che hai è strepitosa, molto bella, nonostante sia un microfono che non è che sia un grande microfono, però fa il suo funzionamento in quella radio, ti porta bene la modulazione, è bella corposa, bella forte, quindi penso che sia già aperto, dai. Va bene, che ora si è fatta? Devo girarmi, le 8:10, va bene, riprendi doppio rumore. Lei riprende, mi saluto là. Buona serata, buona continuazione, che vado a vedere il telegiornale anch'io, dai, mettete un po' di paranoia. Ehi, allora, ce andremo, anche io mi guardo un po' di TV, vedo già da qua che stanno guardando il telegiornale, quindi vado a vedere anch'io, dai, e poi ci mettiamo con i piedi sotto al tavolo. Ciao ragazzi, buon fine serata a tutti, buon inizio per domani. E la mattina, se non sapete cosa cacchio fare, accendete anche la radio. Visto che siamo tutti a casa, io stamattina ho chiamato ma non mi ha risposto nessuno. Quindi se vi va la mattina, io ci sono, mi ascolto sul canale 10. Se domani mattina fa bella giornata e non c'è vento, ma ho visto il vento, mi pare che sia intorno ai 10 km orari, quindi lo lascio pure che un paio d'ore me ne salgo sul tetto e se riesco a smontare il boom di quella direttiva, così è tutta smontata ed è tutta a terra. E ne lascio solo la piccolina in attesa che qualcuno venga a darmi una mano quando passa questo virus. Dai, di nuovo buona serata a tutti circolari, anche per chi è in ascolto. Chiudo anche io. Vai Robrofe. Ciao doppio rum. Grazie, ciao. Salutoni, dai. Ciao Claudio, ciao Gianni. Buona carica, a domani, dai. Buona serata. Anche Gianfranco che è entrato in ruota adesso. Sì, Gianfranco ha salutato perché giustamente quando si saluta chi è in ascolto è giusto anche rispondere. Ciao Gianfranco, un saluto, buon fine serata a tutti i circolari, a tutti anche gli ascoltori, a domani se coincide, ciao. Comunque ci sono sette, io guardo dalle sette e mezza beh, già lo so quello, quindi già ti chiamo qualche volta se ci sei. Va bene, no, io sono entrato adesso col cane, mi sono riseduto un attimino, adesso però vado dall'altra parte a vedere cosa c'è da mangiucchiare, dai. Buona serata a tutti, buona cena a tutti, a domani, ciao. Ciao Claudio, sono al telefono, signori, querti per me urgente, sono al telefono, ciao. Ciao Marconi, a domani. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Marco, ciao Claudio. Ciao Gianfranco, lo profeta, dai. Ciao, buona serata, dai. Ci sentiamo quanto prima, ok? Ciao.